18 novembre 2024, ancora la Biennale, è la seconda giornata, poi stasera torneremo a Roma. E mi trovo al padiglione centrale, ai giardini della Biennale, per una video installazione di Nil Yalter, che è insomma, una pioniera del movimento artistico femminista francese, intitolata Exile is a Hard Job, una collezione di foto, video, documenti che raccontano ancora una volta le storie dei migranti, questa volta però negli anni passati, quindi ci sono migranti italiani, portoghesi, egiziani, e c'è anche un video che ho provato anche a fotografare, diciamo, in una storia di Instagram, molto bello perché racconta i messaggi che la comunità locale mandava ai migranti appena arrivati per fargli capire che non erano desiderati. Per esempio, affascinante, nello spogliatoio del lavoro gli facevano trovare le camicie e i pantaloni a questo migrante appena arrivato, cuciti dall'interno, un po' come si fa con le reclute, si faceva forse con le reclute del servizio militare, gli si faceva il letto a sacco, in questo caso gli fa i pantaloni a sacco o la camicia a sacco. A me che cosa viene in mente? Viene in mente che anche la conservazione, la protesta contro il nuovo, comunque deve trovare un equilibrio tra la necessità di mandare un messaggio, cioè quello rivolto alla persona indesiderata, senza però infrangere il regolamento. Quindi nel fondo, in queste forme di violenza, c'è sempre il rispetto di un'autorità superiore. Cioè, ancora una volta, invece che ribellarsi verso chi favorisce queste lotte tra poveri, si cerca di prendersela con il povero nel rispetto delle regole, sperando che diventino regole soprattutto.